Europa 24. L'antitrust europeo ha inflitto multe dal valore complessivo di 1,7 miliardi di euro alle maggiori banche mondiali, accusate di aver manipolato l'Euribor, il Libor e il Tibor, costituendo diversi cartelli. Gli istituti sanzionati sono Deutsche Bank, Société Générale, RBS, JP Morgan, Citigroup, RP Martin. Graziate invece Barclays e UBS. Il PIL dell'Eurozona del terzo trimestre si attesta a un più 0,1% dopo un più 0,3% del secondo. È la conferma della stima flash di Eurostat. Il rallentamento riguarda anche l'Unione Europea nel suo complesso, con un più 0,2% dopo un più 0,4%. Frenano anche Germania e Portogallo. La Francia torna in negativo, mentre l'Italia resta in recessione. La Spagna segna invece un più 0,1% dopo un meno 0,1%. Ha concluso il suo lavoro e oggi la Task Force europea, nata dopo la strage dei migranti a Lampedusa, ha preparato le sue proposte. Un'opportunità unica per dimostrare che l'Unione Europea è costruita su solidarietà e sostegno. È il momento di agire. Così il commissario europeo agli affari interni Cecilia Malmström a commento del lavoro presentato dalla Task Force nata dopo la strage dei migranti a Lampedusa. Occorrono 14 milioni di euro l'anno per mettere in campo una grande operazione Frontex da Cipro alla Spagna per il pattugliamento delle coste e il soccorso in mare, così come proposta dalla Malmström, secondo gli esperti che hanno individuato 38 azioni. Ora sugli stanziamenti tocca agli Stati membri pronunciarsi. La Malmström ha anche confermato che sono 30 milioni di euro stanziati da Bruxelles in favore dell'Italia quest'anno per l'emergenza sbarchi. Si tratta di aiuti per l'accoglienza e l'assistenza dei migranti, compresi quelli per il pattugliamento dei confini sotto mandato Frontex. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Italia crede fermamente nel processo di allargamento come strumento di stabilità e progresso per tutto il nostro continente. A parlare così è il Presidente della Repubblica Napolitano dopo le critiche sollevate dall'Italia per le parole del commissario europeo Olli Rehn, che si era detto scettico sul nostro paese. Oggi l'incontro a Roma fra il Premier Enrico Letta e il Presidente dell'Unione Europea Van Rompuy. Lo scandalo Datagate e le sue ripercussioni restano al centro del dibattito politico in Europa. C'è chi avanza l'ipotesi di una sospensione del cosiddetto Safe Harbor, l'accordo che semplifica la trasmissione dei dati fra le imprese europee e quelle statunitensi nelle transazioni commerciali, almeno finché tutte le inchieste non saranno chiuse. Dovremmo sospendere l'accordo, dice ai microfoni di Euronet Plus l'europarlamentare tedesco Axel Voss. Penso che la raccolta e l'analisi dei dati nelle questioni commerciali sia persino più intrusiva di quella dell'NSA. Dovremmo farlo il prima possibile, aggiunge Voss, e contestualmente pretendere che gli Stati Uniti si siedano al tavolo per definire degli standard comuni sulla protezione dei dati, perché attualmente non c'è alcun tipo di restrizione. Oggi la Commissione europea celebra a Bruxelles la giornata europea del turismo. Il tema di quest'anno è l'accessibilità, in stretta connessione con la giornata europea delle persone disabili che si è celebrata ieri. Ascoltiamo Carlo Fidanza della Commissione per i trasporti e turismo dell'Europarlamento al microfono di Maria Luisa Pezzali. C'è ancora molto da fare, noi abbiamo aperto una finestra su questo tema. Il turismo nel suo complesso è una competenza che l'Unione Europea ha acquisito da pochi tempo con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Noi per aprire questa finestra abbiamo previsto, siamo già al terzo anno di seguito, un progetto pilota per fare un'analisi della domanda e dell'offerta di turismo accessibile del continente europeo e per cominciare a ipotizzare delle risposte, soprattutto per far comprendere al settore privato, oltre che alle istituzioni pubbliche, che investire in accessibilità delle strutture e delle destinazioni turistiche non è soltanto moralmente giusto, ma può essere anche economicamente utile ed efficace, perché ci si rivolge a una platea molto vasta di potenziali turisti che possono quindi produrre una mole di introiti per il comparto turistico molto interessante. La situazione in Europa è omogenea? C'è una situazione che si va omogeneizzando dal punto di vista dell'accessibilità base, penso a tutti gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ma oggi il concetto di accessibilità è molto più vasto, è accessibilità a vario titolo, ad esempio quello di consentire il booking online sostegno, comunque l'accessibilità sul web con formati accessibili per chi ha disabilità sensoriali. Grazie in regia Roberto Scaltritti, è tutto per questa edizione di Europa 24. Un saluto da Alessandra Tedesco. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.